Come è stato appena accennato, le visite pastorali sono apparentemente, dal punto di vista archivistico, una fonte facile, nel senso che si riconosce un pezzo e dice è una visita pastorale e si pensa che i problemi siano finiti. Purtroppo, forse per fortuna, per il divertimento del lavoro archivistico, non è così. E già solo un avvicinamento alle fonti un po' più costante, un po' più diuturno, consente di fare delle scoperte veramente notevoli. La prima cosa, a cui si era già accennato, è il fatto che da tre serie di visite pastorali alla diocesi di Venezia, quindi quella alla città di Venezia, quella alla diocesi foranea e quella ai monasteri femminili, Un'analisi più approfondita sui pezzi ha portato a eliminare la serie delle visite foranee, o meglio a farla confluire ancora delle visite alla diocesi tutta di Venezia. Questo perché in alcuni pezzi già legati o nel 600 o al più tardi nel 700 si trovavano visite a parrocchie tanto cittadine tanto foranee. Una conferma è venuta anche da un elenco di consistenza che è emerso in una busta di antiche o meno antiche repertori o strumenti di corredo dell'archivio della Curia Patriarcale, in cui si dava un elenco di consistenza di due serie soltanto, quella delle parrocchie e quella delle monache. Una seconda osservazione, che dal punto di vista archivistico non è priva di conseguenze, è il fatto che il materiale non si presenta omogeneo quanto a unità, intendendo come unità archivistica l'elemento base della descrizione in inventario. Quindi si trovano, e qui forse potremmo partire con le diapositive, se è possibile, quindi spegnere le luci, io devo menzionare questo qua. Anche? La lavagna luminosa, sì. Ecco, qui per esempio vediamo a sinistra una filza, a destra un registro. Se nei fatti la cosa può sembrare sostanzialmente omogenea, la cosa è invece del tutto differente, perché nel primo caso, nella filza, sono raccolti materiali in fascicoli poi rilegati per parrocchia, nell'altro caso, purtroppo non è molto visibile, nelle piccole diciture a fianco delle registrazioni si dovrebbero leggere nomi di chiese diverse. Quello è un registro in cui tutti gli atti della visita pastorale sono stati trascritti in ordine rigidamente cronologico, quindi si alterna magari il decreto finale per una chiesa, la visita personale ad un'altra e a seguito magari l'intimazione della visita a una terza parrocchia, quindi anche il reperimento del materiale stesso per una singola parrocchia, per chi volesse fare un tipo di indagine di questa natura, è completamente diverso. Se poi procediamo, vediamo purtroppo poco a poco come, mentre alcuni pezzi erano legati, altri si vede sono fascicoli assolutamente accatastati, in quelli appartenenti alla soppressa serie delle visite foranee, addirittura senza alcun ordine. Alcuni riportano, come si vede qui a sinistra, delle camicie che sono coeve alla stesura degli atti visitali. Altri invece si intravede sulla sinistra quella camicia in carta da pacchi, sono invece esiti di smembramenti probabili di registri o di filze altrimenti ordinate. E quindi in questo caso, dal punto di vista archivistico, sorge il problema dello scarto nella descrizione. Si passa dalla descrizione di un'unità che contiene più visite, possibilmente un'unica tornata di visite, a unità che contengono o la visita alla sola parrocchia, nel caso di sinistra la tisana, nell'altro pezzo invece sono le visite alla diocesi foranea di Venezia. In questo anche con un'oscillazione nel significato di diocesi foranea per Venezia, perché per alcuni cancellieri e notai la diocesi foranea è solo il compardo, per altri invece è sia il compardo che l'altra zona di terraferma, quindi Gambarale, la Tisana e Grado. Quindi ci sono anche problemi dal punto di vista terminologico. Anche le visite ottocentesche, che in genere sembrano presentare un minor numero di problemi. A sinistra abbiamo la vista fino a 800 del cardinale Agostini e presenta questo aspetto a fascicoli, appunto tipicamente ottocentesco, ma un'altra vista ottocentesca in alto, purtroppo molto fuori fuoco, sono tutti gli allegati alla visita Pirker degli anni 20, sempre dell'Ottocento, che si trova in una situazione di assoluto disordine. Si alternano due fascicoli, quelli chiari centrali, in cui sono raccolti materiali per parrocchi, ma poi allegati i più vari nell'assoluto disordine. Anche qui le visite ottocentesche e anche quelle del Novecento, salvo una del cardinale Lafontaine, non sono rilegate, sono in fascicoli e addirittura privi di qualsiasi forma di indice o di repertorio coevo. E quindi anche qui il problema, se riunirli in buste ad opera dell'archivista oppure se scendere nella descrizione al fascicolo. Ma anche qui in un inventario non si può assolutamente passare, scartare continuamente di livello, quindi questo è il primo problema dell'accorpamento del materiale. Il secondo e più interessante, credo, problema è quello dell'ordinamento, cioè della ragione per cui il materiale si trova in questa condizione, quindi in queste forme le più varie. In primo luogo abbiamo nella ricerca appunto sulle visite pastorali rinvenuto una visita alla cancelleria patriarcale compiuta nel 1639 per ordine del cardinal Cornaro. In questo si dà notizia dello stato della cancelleria e si fornisce anche un catastico dell'archivio. La situazione è assolutamente sconcertante, cioè alla maggior parte delle domande del visitatore su quale fosse il contenuto degli armadi di documenti, i notai rispondono che non lo sanno. Fra l'altro dichiarano con notevole candore di aver perso il catastico dell'archivio per lo più insomma si dà un'idea di situazioni di armadi e di contenitori vari che il visitatore continua a definire scritture confuse. Per le visite pastorali viene citato un armadio cum partizionibus signatis per alfabetum cum diverse scripturis, de quibus interrogati notari predicti responderum tesse scriptura diversarum ecclesiarum parrocchiarium videlicet catastica libros computorum et taliorum iurium ad ipsas ecclesias spectantium nec non visitazione ipsarum ecclesiarum. Quindi questo dà la sensazione che le visite originariamente fossero collocate possibilmente in fascicoli, poi suddivise in ordine alfabetico per singola parrocchia e insieme alle visite fossero appunto contenuti anche tutti quegli allegati di cui già il professor Turchini aveva parlato ieri. Oddio, solo cinque. Allora, la prova di questo si ha in fascicoli riutilizzati. Questi sono fascicoli appartenenti ad altre serie che sono stati aperti. All'interno si ritrovano queste scritte, decreti di visita, visita di San Silvestro, sotto c'è scritto Santa Maria Zubenigo, che è una parrocchia veneziana, e anche un numero, il numero 37, quindi dà idea di questo ordinamento, quale dovesse essere. Ed ecco, questi sono particolari di altri, si può vedere come anche le scritture corrispondano. Invece questa è la visita a Santa Maria Zubenigo, questo è un fascicolo di quelli rimasti non rilegati delle visite foranee. Quindi si osserva, si potrebbe osservare sul pezzo, non proprio della diapositiva, che si tratta addirittura della stessa, probabilmente della stessa mano. Questo ordinamento è stato però assolutamente sovvertito nel Settecento, alla metà del Settecento, da parte dell'archivista della Curia Patriarcale, lo Scomparin, che è intervenuto in modo massiccio su tutto l'archivio e che ha riunito in vario modo costituendo delle buste o delle filze. Questa che si vede a sinistra è il repertorio, perché lui ha anche fornito di repertorio tutti questi pezzi, delle visite del patriarca Trevisan, come si vede la prima visita post-tridentina, fra l'altro con un'indicazione non perfettamente corretta, perché il patriarca Trevisan muore nell'89, l'ultima visita, quella di Santa Marina, è stata effettuata in sede vacante. E Dall'altra parte vediamo un'altra visita, la visita Sagredo del 600, in cui si può osservare come sono stati repertoriati fascicoli che però hanno delle camicie precedenti, non sono camicie settecenteschi. In altri casi invece lo stesso scomparì, ma siamo proprio fuori fuoco, si vede meglio qui a sinistra, questo è il primo fascicolo, ha addirittura prodotto delle copertine, delle camicie, addirittura delle legature per le singole visite, e il repertorio si trova separato. Però alcuni pezzi si trovavano già legati. Ed ecco qui, la copertina del patriarca, delle visite del patriarca Trevisano, e l'altra delle monache. E come si vede, in questo caso probabilmente potevano appartenere anche a una stessa serie, quindi c'è l'oscillazione addirittura tra le visite delle parrocchie e le visite ai monasteri femminili. Un caso simile, ancora più interessante, è quello delle visite Priuli. In questo caso sono i due volumi legati probabilmente alla fine del Cinquecento, quando è stata eseguita la visita, quello di sinistra le visite alle chiese, quello di destra le visite alle monache, mentre lì c'è il confronto tra le visite alle chiese, e si tratta di un registro che contiene il diario di visita e i decreti, e invece tutti i supplementi che sono stati legati dallo scomparì. E mentre le visite sono in ordine cronologico, il supplemento comprende le parrocchie in ordine alfabetico, quindi c'è tutto uno scarto di questo tipo. E la differenza si dovrebbe vedere, ecco, anche dai frontespizi, si vede la differenza della scrittura. Un altro caso è quello delle visite Vendramin, in cui, come si può osservare, questi tre volumi sono stati legati insieme, sono stati anche dati dei numeri primo, secondo, il terzo non è numerato, il primo corrisponde alle visite delle parrocchie, il secondo alle visite delle monache, il terzo alle visite foranee, ma di tre patriarchi, quindi Priuli, Zane e Vendramin. Lo scomparin in questo caso non è potuto intervenire, ma è intervenuto in altri fascicoli, come si vede a destra, e cioè ha numerato e repertoriato in ordine assolutamente arbitrario fascicoli relativi a visite di monasteri femminili, scompaginando riunendo in modo poco comprensibile documenti che si trovavano forse sparsi. E come si vede, c'è il numero 9, una visita seicentesca a un monastero, il precedente, una visita cinquecentesca, quello precedente ancora una visita seicentesca, quindi non c'è un ordine. Tuttavia questi sono fascicoli numerati, repertoriati, che costituiscono unità che sarebbe impossibile dividere, quindi si trovano da fascicoli sciolti a filze legate per patriarca. Un altro caso su cui lo scomparì non è potuto intervenire è il caso di queste due filze legate che radunano materiale di viste a singole parrocchie, appunto Sant'Angelo e San Barnaba, materiale che va dagli inizi del 500 al 1620, e questo fino addirittura al 30, forse per San Barnaba, anche se non è segnato da quella precedente segnatura archivistica. In questo caso si può addirittura ipotizzare che sia stato un esito poi abbandonato, perché si trovano solamente queste due filze, di un tentativo di ordinamento, dicevo, forse a seguito di quella visita del patriarca Cornelio di cui si è già parlato, probabilmente per razionalizzare questa situazione di scrittura confusa. E che lo scomparin lo trovasse già in opera lo si dovrebbe vedere in quel repertorio della visita Zane, in cui c'è riferimento a San Barnaba, per la chiesa di San Barnaba, quella indicazione più in basso si vede nel libro proprio di visita, e fa riferimento appunto a questo pezzo. Invece, per indicare degli esempi della ricerca trasversale tra i fondi che bisogna fare, questa è una pagina del volume delle visite Priuli, in cui si ordinano, è il decreto con l'ordinata del patriarca, in cui si ordina fra l'altro di fare lo status animarum per la chiesa di San Geminiano e tutta una serie di inventari. Questo è lo status animarum che si trova appunto nell'omonima seri del fondo, però curia della sezione curia secondo, quindi la sezione antica, e non nella sezione, nell'archivio segreto dove sono le visite pastorali, lì aperte si apre proprio, oltre con l'indicazione fatto d'ordine del patriarca, riferimento alla visita, anche comincia l'elenco delle reliquie, che è il primo ordinato, e seguono poi in ordine, proprio nell'ordine in cui le aveva richiesto il patriarca, tutti gli altri elenchi ed inventari di cui si parlava anche ieri. Un'altra serie, sempre della sezione antica, ha comportato ulteriori sorprese, ed è quella degli inventari. Questi si vedono in alcuni fascicoli, come si vede sono sempre di mano dello Scomparin, che ha dato una prima numerazione, poi l'ha cambiata, anche lì ci sono stati vari sommovimenti all'interno. Dentro si trovano o inventari prodotti in caso di consegna di beni per l'entrata di un nuovo parroco, come quello credo in alto, oppure come quello a destra per la morte di un parroco, ma anche questa che è una rubrica, è strutturata a rubrica, in cui si legge registri fatti per occasione della visita di Monsignore Illustrissimo Reverendissimo Patriarca Francesco Antonio Correr. Di questi si trovano appunto commisti, quindi tutta una serie di elenchi di inventari che sono tipologicamente simili ma prodotti in occasioni diverse. La differenza, quello che può far sospettare che si tratti di materiali di visite pastorali quando non si trovi proprio un'indicazione come questa, è il fatto che mentre gli inventari di beni per l'entrata dei nuovi parroci, per le morte dei parroci, riguardano in genere i beni immobili, in questo caso ci sono anche tutti gli altri elenchi che si diceva, dagli inconfessi ai libri parrocchiali, agli anniversari, agli obblighi di messa, alle menzionerie, eccetera. Per più o meno concludere, ecco un altro problema. Questa è la prima busta creata dallo Scomparin con le visite antiche, quindi le visite pretridentine, e un fascicolo della serie inventari. Si vedono, si dovrebbero vedere in alto aperti, si trovano dei pezzi molto simili, sono un inventario, uno stato del clero del 1492, uno riferito alla chiesa di Santo Stefano e uno alla chiesa di Santa Marina. Uno si trova raccolto allo Scomparin nelle visite antiche, l'altro lo stesso Scomparin l'ha sistemato negli inventari, quindi materiale assolutamente identico, solo riferito a chiese diverse, finito in posizioni assolutamente non confrontabili da parte dello stesso ordinatore. Questi sono sempre gli stessi pezzi in cui si pone un ulteriore problema che andrebbe a ricollegarsi con il problema della descrizione. Qui si tratta di inventari tardo quattrocenteschi della visita Contarini, che questi sono sempre i due pezzi, che portano delle aggiunte, si vede in altro inchiostro, soprattutto in questo pezzo in basso, che sono state fatte per la visita Querini del 1526, una visita che altrimenti non è documentata, quindi lo si trova solamente come prosecuzione, come ulteriori indicazioni, si tratta in pratica di una collazione di un inventario in pezzi tardo quattrocenteschi. Quindi a questo punto si aprirebbe tutto il problema di come rendere questa struttura assolutamente intricata e a rete in un inventario, per rendere intellegibile questo allo studioso, non solo per facilitare a lui la consultazione e il reperimento del pezzo, ma anche per evitare quelle consultazioni che, soprattutto per pezzi che come si vede sono in stato di conservazione piuttosto periclitante, non vengono appunto fatte delle consultazioni, quanto non si possa già in partenza prevedere che il materiale conservato non è quello di cui magari si faceva ricerca. E con questo per ora concludo.